24 Mattino con Giulia Crivelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 29 dicembre. Oggi un'atmosfera un po' meno fiabesca di ieri qui in via Monterosa a Milano, perché ieri davvero era tutto imbiancato, oggi è ancora imbiancato ma ha smesso di nevicare ieri verso mezzogiorno, non ha più ripreso, quindi appunto è tornato un po' tutto alla normalità. Non torna alla normalità, come avete sentito, il contorno di discussioni, polemiche e zone grigie di scarsa chiarezza, un po' per colpa di tutti mi sembra, sulla questione dei vaccini, sulla distribuzione, neve a parte e maltempo a parte, e soprattutto sull'obbligo vaccinale, di cui ci occuperemo domani, mentre oggi ci occupiamo poi dopo il GR delle 8 fino alle 9, sarà nostro ospite anche Alessandro Plateroti, della questione degli Stati Uniti, che ovviamente avete sentito nel GR, ci sono importanti novità. Il Financial Times, con il quale che vi segnalo oggi come primo quotidiano, apre soprattutto sulla trattativa che è in fase avanzata tra Bruxelles, quindi le istituzioni europee, e la Cina per quanto riguarda i futuri accordi commerciali. C'è però questa notizia che è arrivata da Hong Kong, dove oltre ad inasprirsi nella mainland China la lotta a chiunque voglia fare un po' di informazione trasparente sul Covid, con i 4 anni di condanna alla reporter che aveva cercato di indagare sul focolaio primo di Wuhan, anche a Hong Kong ci sono nuovi arresti e nuove strette, sempre per cercare di minimizzare la libera informazione. E poi l'altro titolo importante su Financial Times riguarda appunto il passaggio di questo stimulus bill da 900 miliardi, che è un po' una sorta di decreto legge, possiamo chiamarlo così, non tanto un DPCM, perché non è appunto nel totale potere di Trump far passare questa stimulus bill né di porre il veto, però avrebbe dovuto firmarlo, non l'ha fatto, poi alla fine l'ha firmato, l'ha rimandato alla Camera, chiedendo però che l'assegno, che è una delle tantissime misure contenute in questa stimulus bill, l'assegno di $600 per gli americani che hanno bisogno urgente di un piccolo aiuto in questa pandemia, venga alzato a 2000. La Camera dei rappresentanti ha già dato l'ok, adesso la palla passa al Senato, che, lo ricordiamo, è controllato dai repubblicani. Dal Financial Times vi segnalo anche, appunto, all'interno, pagina 2, un approfondimento sulle proteste che ci sono sempre a Hong Kong. E poi questa notizia l'ho trovata veramente oggi solo su Financial Times, un tema che era stato sollevato durante la pandemia, quello della legge sull'aborto, per legalizzare, non liberalizzare, perché purtroppo l'aborto clandestino in Argentina, come in tutti i paesi in cui non c'è una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, è diffuso, però di nuovo torna al Senato questa legge per legalizzare l'interruzione di gravidanza. Ci fermiamo un attimo perché c'è una prima pausa sulla viabilità importante anche oggi. Rieccoci subito, abbiamo visto la prima pagina di Financial Times, vi segnalo quella dell'Independent. In prima pagina c'è la foto di Luyana Al-Ataul, che è una attivista per i diritti umani dell'Arabia Saudita, e ieri è stata condannata, imprigionata, e credo che tutti possiamo immaginare che cosa vuol dire entrare in un carcere saudita. Poi la notizia principale, il titolo della prima pagina di Independent, che tra l'altro vi ricordo ha questa particolarità che disponibile su internet in una sorta di formato PDF, quindi come sembra che sia un giornale, poi quando lo si stampa sembra un quotidiano nel formato normale dei quotidiani, ma in realtà vive solo su internet di Independent, pur essendo impaginato appunto in PDF, quindi non esiste di carta, non lo si può comprare in edicola all'Independent nel Regno Unito. E il tema è quello degli ospedali britannici, che sono di nuovo sotto pressione. El País apre su un tema interessante. Dunque, al di là dell'accordo a questo punto che pare sfumato tra Spagna e Regno Unito per evitare una Brexit dura per quanto riguarda l'enclave di Gibilterra, sembrava si potesse arrivare a questo accordo, probabilmente non sarà così, ma la notizia è anche che il corte inglese, che è un po' l'equivalente, è un department store, quindi l'unica parallelo in Italia è la Rinascente, che come sapete non è soltanto a Milano ma anche in altre città italiane. Quindi El Corte Inglés, per affrontare la competizione durissima anche in Spagna di Amazon per quanto riguarda la parte online, aprirà una sua filiale logistica per cercare appunto di contrastare Amazon forte della presenza fisica, perché il Corte Inglés nasce e cresce come catena di department store fisici, ma anche quella online. Le Figaro titola: un anno dopo la Cina gira pagina, tourne la page sul Covid-19. Sappiamo che appunto in mezzo anche a provvedimenti come quello che abbiamo appena citato, di una condanna a 4 anni per una giornalista che aveva semplicemente cercato di far luce su come erano veramente andate le cose a Wuhan, a parte questo, dal punto di vista economico e pare anche dell'emergenza sanitaria, la Cina in effetti gira pagina. Tagesspiegel apre su questo record che ha segnato ieri il DAX, l'indice che misura, che raccoglie le più importanti aziende quotate tedesche a Francoforte, quindi un nuovo record. E poi naturalmente anche un approfondimento sui vaccini e sulla decisione che, di cui si è parlato molto anche in Italia, ordine che la Germania ha fatto a Pfizer per il vaccino messo a punto con BioNTech, che è un'azienda tedesca di biotech. La Bild apre su questa, sulle grandissime nevicate, sul fatto che comunque in Germania molti impianti sciistici siano già aperti o potranno presto aprire, e poi questo DAX record. Il Daily Mail, che è un tabloid inglese, ve lo segnalo perché ha un titolo a caratteri cubitali, 4 parole in tutto: don't betray our children, non deludete, è una parola ancora più forte, ma non deludete i nostri figli, perché c'è l'ipotesi che Fury parla di una reazione furiosa di molti genitori, di molte associazioni di genitori, perché pare che le scuole resteranno chiuse nel Regno Unito fino a febbraio. Ma il titolo più interessante è un titolo in realtà di ieri che non eravamo riusciti a stampare perché non era pronta la prima pagina quando siamo andati in onda, è quello del New York Post, che è un tabloid di proprietà di Murdoch di New York, che è sempre stato pro-Trump in un modo veramente, a parte molto chiaro, molto trasparente, ma potremmo dire quasi esagerato, e ieri ha pubblicato questa copertina con 3 parole: stop the insanity, fermiamo questa follia. Il Mr. President, you lost the election, here's how to save your legacy. Signor Presidente, lei ha perso le elezioni, ma così può salvare la sua legacy, quello che resta, l'eredità della sua presidenza. Il tema è soprattutto sulla questione dei vaccini, perché ricordiamocelo sempre, io lo sottolineerò sempre, per quanto probabilmente se vivessi negli Stati Uniti non avrei votato Trump, questo successo dell'accelerazione della messa a punto di un vaccino, prima quello di Pfizer BioNTech, sta arrivando quello di AstraZeneca, sta arrivando quello di Moderna e molti altri ancora, messi a punto in un modo occidentale, quindi lasciamo perdere quello che possa essere stato l'iter di messa a punto del vaccino russo, lo Sputnik o di quelli cinesi. Questi vaccini sono stati messi a punto così in fretta grazie a questa Operation Warp Speed, il cui credito va a Donald Trump. Il Sole 24 Ore: borse, il piano americano innesca rally. Abbiamo detto, alla fine, dopo le minacce di vietare questa stimulus bill, che lo spiegheremo bene poi dopo il GR delle 8, anche grazie a Alessandro Platerotti, non è soltanto una legge che contiene ristori e misure straordinarie. Dentro a questi 900 miliardi c'era anche l'equivalente di quello che noi qui potremmo chiamare finanziaria. Tra l'altro Donald Trump aveva anche messo il veto, possibilità che gli è concessa dalla Costituzione americana, in quanto capo di governo e capo di Stato, aveva messo il veto sulla Defense Bill, cioè la legge invece che stanziava tutte le risorse per il Ministero della Difesa, quel veto è stato overridden, cioè la Camera, anche questo sta nelle prerogative costituzionali del Congresso americano, la Camera ha cancellato quel veto, quindi è passata alla fine anche quella legge. E quindi il titolo appunto del Sole 24 Ore: ottimismo dopo la firma di Trump sugli aiuti, l'intesa su Brexit e il via ai vaccini. E poi anche un accenno alla volata di cui avevamo parlato anche ieri del Bitcoin, ridimensiona la volata dei giorni scorsi ma rimane sotto i riflettori. Anche il Sole 24 Ore in prima pagina parla di questa intesa tra Europa e Cina, Pechino apre sul lavoro per quanto riguarda quindi tutti gli investimenti, possibile già domani l'annuncio di Michel, il negoziatore, von der Leyen, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, e Xi Jinping. E poi in prima pagina anche, abbiamo parlato ieri e nei giorni scorsi delle possibili ulteriori fusioni e acquisizioni nel settore bancario, ce ne sono anche tante altre, e per esempio in questo caso parliamo del settore delle utility. Marigia Mancano ci racconta, pagina 9, ma la notizia è richiamata in prima pagina, che Veolia attacca Suez, ipotesi scissione. Proseguono le trattative per portare a termine la fusione tutta francese tra le utility, quindi Veolia dovremmo dire, e Suez. Per superare l'impasse spunta un'ipotesi: dividere Suez e vendere a Veolia tutto ciò che non riguarda i servizi idrici, perché c'è sempre naturalmente, soprattutto quando parliamo di utility, cioè un altro termine forse un po' di cui abusiamo un po', ma che in inglese significa non utilità, o meglio non va tradotto così, ma appunto tutte quelle società che operano nei servizi di base, che ormai qui in Occidente consideriamo di base, cioè quelli dell'acqua, i servizi dell'elettricità, e naturalmente c'è un problema poi di tariffe, di accesso e di anche di monopolio. Corriere della Sera, vaccino divisi sull'obbligo. Due gli editoriali in prima pagina, uno di Sabino Cassese, il costituzionalista, le scelte non fatte, dove si parla anche del tema che verrà sollevato anche da altri, perché lo ricordiamo, ieri la manovra è stata approvata alla Camera in tutta fretta e oggi dovrebbe toccare al Senato, e capite che una legge finanziaria approvata in extremis per evitare l'esercizio provvisorio e con così poco tempo per esaminare provvedimenti così importanti ci obbliga a farci delle domande sul funzionamento del nostro, soprattutto del sistema bicamerale. Poi Aldo Cazzullo esprime la sua opinione, dice che questo è stato l'anno del ritorno all'ordine, dice che il 2020 sarà ricordato in politica come l'anno del ritorno all'ordine, il che in un mondo sottosopra per la pandemia può sembrare curioso. Chi fosse incuriosito da questa ipotesi di Aldo Cazzullo trova tutto a pagina 30. La foto del Corriere della Sera, giornale di Milano per eccellenza, è dedicata appunto alla nevicata di ieri a Milano, e non solo, il nord sotto la neve frena l'arrivo delle dosi di vaccino naturalmente. La Repubblica invece apre su un'intervista che il direttore Maurizio Molinari fa a Paolo Gentiloni, di due pagine, che trovate a pagina 2 e a pagina 3, e il titolo in prima pagina è: Gentiloni, rischio ricoveri, l'Italia acceleri le riforme. L'allarme del commissario all'economia dell'Unione Europea: servono procedure straordinarie, altrimenti i fondi europei verranno bloccati. E poi c'è un accenno a quello che ha fatto ieri Renzi con la presentazione del piano CIAO, che in realtà è un acronimo di Italia Viva, per appunto presentare e esaminare un recovery plan diverso da quello presentato dal governo Conte. Sostanzialmente Conte cambi il piano o sarà crisi. E Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, che dice: se si va al voto pronti a un'alleanza Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, LeU, il partito per intenderci del ministro Speranza, della salute Speranza, senza Italia Viva. La Stampa: vaccino obbligatorio se uno su tre lo rifiuta. Questa è una virgolettato, perché La Stampa ha invece un'intervista che trovate a pagina 2 al vice ministro della salute per Paolo Sileri, esponente del Movimento 5 Stelle: puntiamo alla volontarietà, altrimenti correremo ai ripari. E poi la foto, anche qui la foto della neve, in realtà per la precisione qui è una foto della linea ferroviaria Cuneo-Nizza-Monferrato, sotto appunto la neve, con un racconto che poi trovate a pagina 11 di Deborah Compagnoni, ex super campionessa di sci, ora comunque sempre in prima linea per difendere la sua passione che è la montagna. Beffa in montagna, mai tanta neve ma senza sci. La Nazione, Il Giorno, ve lo segnalo perché la foto è dedicata a questa ipotesi che si è fatta strada nei giorni scorsi, di, in vista del Festival di Sanremo, di creare quella che viene definita dai virologi una bolla, cioè una zona più o meno grande o un luogo, in questo caso una nave da crociera, che diventi una bolla che isola quindi le persone in quel luogo o in questo caso sulla nave dal resto, per naturalmente le ragioni di pandemia. Finché la barca va, Sanremo anti-Covid, pubblico e artisti in quarantena su una nave, spola fra la Smeralda, la nave crociera ancorata al largo, e il teatro Ariston, e vedremo se poi davvero succederà. Ma il titolo principale riguarda quello che, secondo la Nazione, quindi il quotidiano nazionale, perciò anche Il Giorno e il resto del Carlino per chi acquista questo quotidiano in Emilia-Romagna, Renzi apre la crisi di Capodanno. Ultimo titolo prima di lasciarci un attimo per una pausa in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. Vaccini, l'Italia resta indietro, così titola Il Messaggero, un patto tra Germania e Pfizer rompe il fronte europeo. Questa è l'interpretazione del Messaggero, dell'annuncio che ha fatto ieri il ministro della salute tedesco Spahn, appunto sull'acquisto di extra dosi rispetto a quelle prenotate e acquistate dall'Unione Europea da parte della Germania. E noi ci lasciamo un attimo, sentiamo appunto le novità sul meteo. Le grandi storie dello sport e i grandi libri che le raccontano. Sono Dario Ricci e dal 28 dicembre al 1 gennaio vi aspetto dalle 14 con i miti di Olimpia e le più belle pagine della letteratura sportiva. E la domenica alle 16.30 Olimpia vi farà rivivere le leggende di Maradona e Pelé, naturalmente qui su Radio 24. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e devo innanzitutto ringraziare Pietro Lacorte, e quando dico che qui sono ospite, che ho sempre insomma paura di fare qualche passo falso, ecco appunto lui mi aveva, c'è questo sistema per il quale dalla regia si possono mandare dei messaggi a chi è in conduzione, lui mi aveva segnalato guarda che non c'è il meteo, io ve l'ho annunciato per ben due volte e ho tanto bisogno di previsioni buone anch'io. E in realtà appunto avete sentito il meteo, questo meteo delle 7.30, niente, ce lo siamo persi. Intanto comunque approfitto per ringraziare Pietro in regia che mi ha anche sistemato i WhatsApp che non funzionavano, e quindi ringrazio anche chi, oltre a chi naturalmente sta ascoltando, chi sta mandando messaggi al 349-238-6666. Eravamo sulle prime pagine, manca ancora quella del Fatto Quotidiano che titola così, credo che questo fosse il titolo di un film di qualche anno fa, Il Signor 15 Palle. È un fotomontaggio in cui Matteo Renzi sembrerebbe giocare a biliardo. Ciao, le bugie del guastatore, poi queste 15 bugie le trovate a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Come potete immaginare, insomma, un attacco di quelli a pallettoni contro Matteo Renzi, come quelli che quotidianamente fa il Fatto Quotidiano. Ricordiamo che addirittura il suo direttore Marco Travaglio non riesce a nominarlo, non riesce a dire Matteo Renzi, lo chiama l'innominabile. Poi in realtà in questo editoriale di oggi lo nomina più volte. Questa comunque è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Giornale, Renzi ciao a Conte, abbiamo detto appunto questo che è acronimo scelto da Renzi che sta per cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità. Il Rottamatore, accetti le nostre condizioni Conte o ce ne andiamo. E vi segnalo però sul giornale, sulla pagina del giornale, anche un approfondimento sulla questa questione del vaccino obbligatorio. Movimento 5 Stelle spacca il governo. Gianmica Lessin, che è un giornalista del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, scrive un intervento secondo me interessante, che dice questa volta l'Europa si desta, ci sono stati dei problemi, c'è questo tema del quante dosi sono state state ordinate, acquistate e poi distribuite ai vari paesi, perché la Germania nel primo giorno, lo ricorderete, ha avuto non dosi direttamente proporzionali alla sua popolazione, 60 milioni in Italia, 9.750 dosi, 83,2 milioni la Germania secondo il censimento 2019, e oltre alle 10.000 passadosi, e lì ci starebbe qualcosa in più, visto appunto i 20 milioni e passa di abitanti in più, in realtà la Germania nel primo giorno ne ha avute 150.000. Su questo tema ci sono state molte polemiche, ma Gianmica Lessin comunque nel suo editoriale, che poi trovate a pagina 2, nel suo commento, dice... Dietro alla strategia vaccinale emerge un piano molto più ampio e audace con cui l'Unione Europea punta a dichiarare emergenze sanitarie indipendentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, creare piani per la risposta alle pandemie, gestire i dati medici forniti dai singoli paesi e affrontare, come non è successo a marzo, la carenza di strumenti medici, il che significa meno sovranità per Stato e Regioni in campo medico, ma anche minor conflittualità e minor improvvisazione quando si tratta, ad esempio, di limitare la circolazione delle persone o definire le zone rosse. E su questo tema delle mancanze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorderete quante polemiche, perché quante settimane ci mise l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare quella che poi adesso chiamiamo tutti pandemia, appunto una pandemia. La verità, tante chiacchiere e pochi vaccini, prepariamoci al peggio, slitta ancora l'arrivo di dosi non simboliche in Italia, non possiamo neppure protestare, abbiamo delegato tutto a Bruxelles che ci tratta da vassalli, vedete, posizioni appunto decisamente diverse. Il tema dell'ennesima revisione del sistema pensionistico, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con la possibile fine della sperimentazione di quota 100 che dovrebbe appunto finire nel 2021, pensioni al palo, ecco quanto ci si rimette, un approfondimento di Claudio Antonelli. E Francesco Bergonovo, a proposito dei vaccini, una editoriale decisamente controcorrente che si intitola "Ma la divinità in forma di siero", naturalmente il qui usato come sinonimo di vaccino, "non ci restituisce le nostre libertà". Libero invece, con il suo direttore Vittorio Feltri già da parecchi giorni schierato fortemente a favore della vaccinazione e quanto più velocemente possibile a tutti, il vaccino anglo-italiano è pronto e arriverà a breve, l'antidoto è anche qui usato come sinonimo di vaccino, anche se naturalmente non è esattamente un sinonimo, però intendiamoci, è quello, quindi il vaccino di AstraZeneca forse già giovedì sarà autorizzato da Londra, poi tocca all'autorità dell'Unione Europea, così potremmo avere subito 40 milioni di farmaci per proteggerci tutti, se Conte sarà in grado, puntini sospensivi. E poi il tema della Germania, la Germania si procura 30 milioni di dosi in più, brava Merkel, scemi noi, leggo testualmente. Avvenire, vaccino, l'ora dei fatti, e poi anche manca dalle prime pagine oggi, quasi, non da quelle interne naturalmente, i famosi numeri, i numeri della pandemia di ieri, e ieri meno tamponi, più ricoveri, restano chiusi. E poi c'è questo tema che trovate anche sugli altri giornali naturalmente, che è quello, proprio alla luce di questi dati, della decisione quasi certa che le palestre restino chiuse oltre il 7 di gennaio e anche i teatri. Con la crisi, scrive Avvenire in prima pagina, notizia la trovate anche su altri giornali, 305.000 aziende di tutte le dimensioni naturalmente in meno. E poi in prima pagina, perché abbiamo detto della reporter incarcerata, condannata a 4 anni di carcere in Cina, e dell'avvocato che difende i diritti umani in Arabia Saudita, Avvenire ne parla insieme in prima pagina, donne coraggio che incalzano Pechino e Riyadh, quindi Zhang Zhan a Pechino, che ieri appunto è stata condannata a 4 anni di carcere da un tribunale di Shanghai, e invece Lujan Al-Atlul, il protagonista della campagna per abolire la tutela maschile sulle donne e il divieto di guida, che in effetti poi è stato abolito in Arabia Saudita, ma evidentemente la decisione non è stata ben digerita, entrambe sono colpevoli di aver denunciato i soprusi dei governi. Domani, due come sempre gli articoli sulla prima pagina, da una parte un interessante articolo di Davide Maria De Luca, perché abbiamo cominciato a sentire queste notizie di personale all'interno, personale sanitario e non, comunque persone che lavorano all'interno delle RSA contrarie a vaccinarsi già domenica su Repubblica per quanto riguardava le RSA del Piemonte. Poi ci sono stati altri dati, in effetti mancano dei dati precisi, e Davide Maria De Luca fa un'opera meritoria, dal punto di vista giornalistico e non solo, secondo me, cioè cerca di andare oltre queste voci, questi si dice, e quello che emerge da questa sua ricognizione è: vaccino, il problema non sono i medici e gli infermieri Novax. Secondo appunto questa ricognizione non c'è alcuna emergenza, i sondaggi sui ribelli sono soltanto voci, l'adesione degli operatori sociosanitari alla campagna sarà massiccia, il problema sarà monitorare la somministrazione. Il Foglio, il pezzo principale è del direttore Claudio Cerasa: è ora di correre, cara Europa, c'è un populismo nascosto anche tra i campioni dell'antipopulismo che vogliono combattere i giganti del Big Tech invece di mettere i più piccoli nelle condizioni di competere con i più grandi. Per tornare a crescere non c'è posto per l'autolesionismo. E il fondatore del Foglio e ora editorialista Giuliano Ferrara invece è contrario all'obbligo vaccinale. Il titolo del suo pezzo è: contro la barbarie dell'obbligo vaccinale. Trattare le masse come fossero pecore destinate all'immunità di gregge è oltranzismo positivista che rischia di esasperare menti già di per sé confuse. Invece serve pazienza per persuadere le minoranze riottose. È un punto di vista interessante. Il manifesto sotto il gelo d'Europa. Questa è una cosa di cui ci dimentichiamo. Io stessa, ieri uscendo di qui per andare a fare colazione, che tragedia, camminare nella neve, i piedi freddi. Ecco, il manifesto ci ricorda che queste nevicate, o comunque la stagione invernale, per esempio, ha un effetto sulle migliaia di profughi abbandonati sotto la neve della rotta balcanica, senza cibo né acqua. Vorrebbero raggiungere l'Europa, ma le frontiere con la Bosnia sono sigillate. L'allarme dell'Organizzazione Internazionale per i Migranti è una catastrofe umanitaria. E poi il manifesto, però, in prima pagina mette anche questa notizia dell'imminente approvazione del vaccino di AstraZeneca: 470.000 dosi Pfizer in arrivo, ma per coprire 13 milioni di persone occorrono anche gli altri, quindi appunto anche quello di AstraZeneca. Torniamo sul Sole 24 Ore e vi segnalo questo approfondimento sugli NPL, e non me ne vorrà l'ascoltatore che mi ha mandato numerosi messaggi per dire che devo testuale smetterla di usare l'inglese. Purtroppo NPL è l'acronimo di tre parole inglesi, quindi mi spiace per lui, ma le devo usare, e sono queste: non performing loans, che sta per letteralmente prestiti che crediti inesigibili. E il tema di questa inchiesta di Laura Serafini a pagina 6 del Sole 24 Ore: allarme di imprese e banche per le nuove regole sugli NPL. Una lettera mandata direttamente alle istituzioni dell'Unione Europea, la stretta sui ritardi di pagamento e sulle soglie degli importi scaduti rischia di determinare la classificazione a default, cioè fallimento letteralmente, di moltissime imprese comunque sane, che semplicemente per questa emergenza economica gigantesca seguita all'emergenza sanitaria, appunto, sono in ritardo sui pagamenti, non per questo devono essere classificate come imprese per forza di cose insolventi. Sulla prima pagina della sezione Economia e Imprese, un'altra inchiesta di Luca Orlando che fa un po' il punto, lo diciamo spesso, no? Questa pandemia ha colpito tutti, però ci sono delle eccezioni, per esempio nelle imprese: digitale, green, 3D e mascherine, chi vede luce nell'anno più buio. La spinta emergenziale dalle produzioni sanitarie e da nuove abitudini, ossigeno e ventilatori, ma anche banchi, il settore della ICT, Information Communication Technology, e mobilità elettrica. Invece la prima pagina della sezione Finanza e Mercati, anche qui come a volte dico, se fossi direttore di un giornale, non lo sarò mai, farei un paio di pagine credo su: ma che fine ha fatto questa questione, ma che fine ha fatto questa persona. L'idea mi era venuta tanti anni fa, quando era entrato in coma un personaggio politico israeliano e non se ne sapeva più niente. Poi a un certo punto naturalmente si è saputo che dal coma era uscito morendo. Ma a proposito di appunto, ma dove, che fine ha fatto, a che punto è questa questione? E parliamo di Atlantia. Atlantia, la holding che è controllata dalla famiglia Benetton e che a sua volta controlla Autostrade, Atlantia respinge l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti. Troppo basso il prezzo per Aspi, che è la società che gestisce poi la concessionaria che gestisce praticamente la rete autostradale italiana. La holding resta comunque in attesa di una proposta vincolante per il 31 gennaio, mancano due giorni. Il 15, manca più, quasi tutto il mese di gennaio, però il 15 di gennaio è convocata l'assemblea per votare la scissione di questo asset, cioè Aspi, dalla holding Atlantia. Poi c'è un altro tema che riguarda la Cina, anche questo è in prima pagina anche su Financial Times, ed è Alibaba, questo gigante che confronto è Amazon, è Davide, quindi Alibaba è l'equivalente un po' diciamo di Amazon in Cina. Alibaba sotto attacco in borsa, paga lo scontro con Pechino. Ieri ha perso un altro 8% perché c'è un pressing dell'antitrust cinese, pensate, esiste anche in Cina l'antitrust, e faro della banca centrale sulla controllata Ant Group, che è il braccio diciamo finanziario di Alibaba. Ci lasciamo però un attimo per una pausa sulla viabilità. Ancora ben ritrovati da Giulia Crivelli per quest'ultima parte della nostra rassegna stampa. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'approfondimento di Guido Santevecchi su quello che appunto è successo in Cina, Zhang Zhan, Cina condannata a 4 anni, la blogger che denunciò la tragedia di Wuhan. E poi anche un riferimento a quello che invece è successo a Hong Kong, processo ai 12 ragazzi che volevano fuggire a Taiwan. Sempre dal Corriere della Sera un approfondimento invece da Nashville, dove nella mattina del giorno di Natale c'è stato questo strano autobomba, era in realtà un camper che aveva anche un altoparlante da cui con circa mezz'ora di anticipo sull'esplosione si diceva questo camper sta per esplodere, e Guido Olimpio ci fa il punto sulle indagini. All'interno del camper erano stati trovati dei resti umani che poi si sono rivelati quelli del proprietario del camper, Anthony Quinn Warner, che viveva da solo tra sensori e telecamere, ossessionato dalle teorie cospirative sul 5G. Voleva fare danni, non uccidere. Questo camper era piazzato davanti alla sede di Nashville dell'AT&T, il colosso delle telecomunicazioni. Alla fine appunto ha dato tempo, 15 minuti per sgomberare l'area, e quindi effettivamente ci sono stati molti danni agli edifici documentati dalle fotografie, 3 persone ferite ma nessuna vittima. Massimo Franco invece, quirinalista tra le altre cose del Corriere della Sera, ci racconta questi cambiamenti in Vaticano, trovate anche su altri giornali ma qui è una pagina intera, la mossa del Papa, tolti potere e soldi alla Segreteria di Stato Vaticana, ridimensionato il ruolo di questo dicastero chiave, non potrà gestire i fondi senza autorizzazione. E poi Federico Fubini invece racconta la storia di Yoni Assia, che è un americano che ha fondato questa piattaforma di trading online che si chiama eToro, l'ha fondata nel 2007, mi colpisce perché tutte le volte che vado su YouTube per cercare gli audio e i video dai quali poi traiamo anche dei piccoli pezzi da trasmettere poi soprattutto in Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, c'è sempre la pubblicità di Alec Baldwin a questa eToro, e io non l'avevo mai sentita, naturalmente la salto sempre, però mi era rimasta in mente, e così ho scoperto che cos'è eToro, Trading Social Derivati, l'ascesa e i rischi di eToro. È una piattaforma da 16 milioni di utenti che appunto però, come direi tutte le piattaforme di trading online, ha sicuramente anche presenta anche dei rischi. Con il Corriere della Sera oggi in edicola anche il supplemento Buone Notizie, 2021 il futuro sarà donna, io in quanto donna mi permetto di avere qualche dubbio, comunque secondo Buone Notizie, professioniste, insegnanti, cooperatrici, imprenditrici, madri, scrittrici, ecco chi non ha paura dell'anno nuovo. E a proposito di donne, questa è una storia bellissima, ne avevamo accennato durante una rassegna stampa dei giornali stranieri, Se è vero che Time ha messo in copertina come Person of the Year Kamala Harris e Joe Biden, ha fatto anche una copertina alternativa con Kid of the Year, cioè il ragazzo, la ragazza, il giovane dell'anno, e questa ragazza è Gitanjali Rao, e in quell'occasione l'aveva intervistata Angelina Jolie, era sulla copertina di Time appunto, che oggi Repubblica pagina 21, e Giuliano Aluffi l'ha intervistata. Chi è questa ragazzina? 15 anni, è già laureata, è una scienziata quindicenne. Cambiare il mondo dipende solo da noi. Ho inventato Tetis, che è un depuratore, o meglio è un meccanismo per sapere se è sicura l'acqua del proprio acquedotto. Mi ispiro soprattutto a Jonas Salk, che sviluppò il vaccino per la poliomielite e non volle mai brevettarlo. Questa è una storia bellissima della storia della medicina. Immaginate quanto brevettandolo, quanto avrebbe potuto avere in termini economici, ma ci sono delle interviste bellissime, una anche a Enzo Biagi, che trovate facilmente sul web, appunto a Jonas Salk, che dice no, questo è neanche un dono, è una mia scoperta, è una cosa a cui io ho lavorato, ma che è giusto che diventi patrimonio dell'umanità e non che serva a me per arricchirmi. E sempre dalle pagine interne di Repubblica, nel dorso Cultura, una bella intervista di Antonello Guerrera a Michael Rosen, che è uno scrittore britannico inglese in realtà, proprio di 74 anni. Ha pubblicato nel 2019, credo già, questo libro che si chiama Il libro dei giochi, che è appunto come un atlante di tutti i giochi che si possono fare, non naturalmente i videogiochi, ma i giochi quelli diciamo veri per una come me, di un'altra generazione non nativa digitale. Non ci resta che giocare. Lo scrittore inglese per ragazzi, reduce dalla battaglia contro il Covid, ne è convinto. Il nostro lato ludico ci salverà sempre, anche nel 2021. E quando, visto che appunto ha avuto il Covid ed è guarito, anche perché per quanto, ricordiamolo sempre, gli effetti a lungo termine dell'aver contratto questa malattia sono ancora abbastanza ignoti, però dice l'intervista di Antonello Guerrera, gli chiede: ora quando senti i negazionisti del Covid che cosa prova? E Michael Rosen risponde: tanta tristezza, ma anche disgusto. Settimane fa ho avuto una discussione su Twitter con una giornalista inglese, Carol Malone, per la quale molti pazienti di Covid accentuano i loro sintomi. Litighiamo, e allora lei: Michael, io ci credo che tu abbia sofferto molto, ma hai anche 74 anni. Allora capisci la mentalità perversa che serpeggia nella nostra società. Se sei improduttivo o inutile, non vali niente. Tutto questo somiglia ai capri espiatori di decenni fa. È fascistoide, non fascista, fascistoide. E mi vengono sempre in mente le parole che forse mi avevano, tra le parole che mi hanno colpita di più nelle ultime settimane, quelle di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, quando cominciò a impennarsi il numero di contagiati e anche di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva nella sua regione, che disse: è passata l'idea che questa è una malattia dei vecchi, e naturalmente non è così. Vi dicevo l'intervento di Deborah Compagnoni, lo trovate a pagina 11 della Stampa. La doppia beffa in montagna è il segnale che ci dà la natura. La neve è arrivata nei giorni del vaccino, ma gli impianti sono chiusi. Impariamo a rispettare l'ambiente, il contatto con la terra ci dà la forza. E dice: personalmente ho fatto mie le parole di uno scrittore che ha evidentemente che le piace molto, John Muir, che è uno scrittore ma anche naturalista, e tra le molte cose che Deborah Compagnoni ha letto nei suoi libri c'è: andare in montagna è come tornare a casa, e per me è proprio così. La rotta balcanica e tutte queste persone che fuggono da qualcosa e cercano disperatamente di raggiungere l'Europa, la racconta anche Francesca Paci a pagina 16 e 17 sulla Stampa. Bosnia, quei 3.000 profughi intrappolati nel ghiaccio, una catastrofe umanitaria. I migranti respinti dall'Europa dormono nei boschi patendo il gelo dell'inverno balcanico. Prima di Natale un incendio ha distrutto il campo di Lipa, e gli operatori, a chi appunto ha il coraggio, la forza di andare a visitare quei luoghi, come ha fatto anche Francesca Paci, dice: nessuno li vuole. Vi segnalo questo inquietante articolo, per me inquietante, di Anna Maria Bernardini De Pace, che fa capire quanta omofobia ci sia ancora in questo paese. L'università dove si insegna che i gay sono malati. Trovate questo articolo a pagina 21 della Stampa. Vi leggo le ultime righe. Mai come in questi anni, con i progressi della scienza, le problematiche dell'ambiente, i dibattiti sull'eutanasia, sulle terapie geniche, la biotecnologia, si è discusso di bioetica e ci si è focalizzati sul principio di rispettare l'individuo e le libertà personali. Il dibattito pubblico, anche internazionale, sulla bioetica è importante per formare le nuove generazioni verso il futuro. È fondamentale per continuare a sostenere la libertà e la dignità della persona, ma anche il rispetto per le scoperte della scienza e le risorse mediche. È corretto formare giovani psicologi rivestendoli di un'educazione vetero-cattolica, paternalistica e oserei dire dittatoriale, perché appunto se leggete questo pezzo scoprite che c'è un testo scelto dalla professoressa Claudia Navarini per il corso di psicologia dell'Università Europea di Roma, dove si spiega che solo l'atto coniugale è di per sé idoneo alla generazione della prole, la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione, quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, l'atto procreativo non può essere un atto puramente biologico come la miscela di elementi biochimici. Vi segnalo poi, visto che ho parlato all'inizio dei meriti che ha Donald Trump nell'aver fatto qualcosa che mai prima si era visto, cioè una corsa alla messa a punto di un vaccino che poi è, per quanto ne sappiamo oggi, riuscita. Andrea Scanzi, sul Fatto Quotidiano, fa l'elenco dei peggiori politici, secondo lui naturalmente, del 2020. Manco a dirlo, il peggiore di tutti è Renzi, poi c'è Bolsonaro, poi c'è Al-Sisi in Egitto, il presidente dell'Egitto, poi c'è Salvini e poi c'è Trump. E di Trump, a Trump dedica 6 righe. E sono queste: stava per essere rieletto presidente degli Stati Uniti uno così, xenofobo, maschilista, mitomane. Attenzione, perché Scanzi crede di essere un grandissimo umorista. Pettinato coi petardi morti e responsabile della peggiore gestione dell'emergenza Covid in tutto il globo terracqueo. Siamo messi proprio male, buon anno. Di Trump comunque parleremo, come vi dicevo, dopo il GR delle 8. Ora lascio la parola con qualche secondo di ritardo a Gigi Donelli e appunto ci sentiamo subito dopo il GR delle 8.